Partenza alle 11.20 da Milano Malpensa. Arrivo al Minsk International Airport alle 15.20. Attesa di 7 ore e mezza. Partenza da Minsk alle 22.35. Arrivo a Tbilisi alle 2.30 del mattino. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16.07. È il primo di luglio del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Una volta, qualche anno fa, ho incontrato un signore in un bar di Roma. Facevo l'attore a quel tempo. Anzi, non lo facevo ancora, perché non avevo ancora fatto uno spettacolo vero. Insomma, uno di quelli in cui vieni pagato, intendo. Non avevo ancora lavorato. Era in quella terra di nessuno che hanno vissuto in molti, no? Quella terra che sta tra quando hai finito una scuola e quando ancora non hai iniziato a lavorare, a fare quello per cui hai studiato in quella scuola. Ero andato a Roma a fare un provino per uno spettacolo. Era uno spettacolo con la regia di Gabriele Lavia. Non ricordo più nemmeno che tipo di spettacolo fosse. Ricordo però che il provino andò male, anzi no, andò proprio malissimo. Alla fine Lavia mi disse dal buio della sala una cosa tipo: grazie, ci pensiamo un po'. Fuori dal teatro andai a prendere un succo di frutta alla pesca e il barista si mise a chiacchierare con me. Io dovevo assolutamente raccontare a qualcuno, volevo dire a qualcuno che avevo fatto una cosa fatta male e che l'ennesimo provino era fallito. E quindi lo raccontai a quel poveraccio, che si sorbì tutto il mio pippone sul provino e sul fatto che avevo buttato via 3 anni di scuola e che non ero capace di fare quel mestiere, ma soprattutto che davanti a me avevo un futuro fatto di delusioni e porte sbattute in faccia. E tra l'altro tutto solo per un provino andato male. Figuratevi se mi fossero andate male, che so, gli esami del sangue, ad esempio. In quel bar di fianco a me c'era un signore elegante, tipo un avvocato o un notaio, di quelli sempre in abito scuro, con la barba fatta e la pelle un po' biancastra, di chi rimane chiuso in uno studio fino a tarda sera. Una di quelle persone che ti aspetti ti diano sempre del lei quando ti parlano e che usino solo termini o modalità che la loro professione impone. Quel signore elegante e biancastro invece mi disse che non è così importante quello che non ci riesci di fare. È molto più importante quello che riusciamo a fare dopo averlo progettato. Ecco, mi parve una vaccata all'epoca e sinceramente questa storia dei progetti secondo me è un po' sopravvalutata. Forse perché tutti usano questa parola e spesso in maniera inappropriata. Tutti parlano di progetti, di piani, di disegni, al punto che se ne parlano tutti poi non gli dai più valore. Stamattina però, mentre pensavo a quest'ultima puntata e a questi mesi che mi trovo davanti, mi è tornato in mente quel discorso fatto al bar. Forse perché quando una cosa finisce, quello è proprio il momento migliore per pensare a cosa fare di nuovo. E oggi, per l'ultima volta in questa stagione, lo chiedo anche a voi. Voglio pensare ai prossimi mesi, quelli veramente estivi. Quei 2 mesi che iniziano oggi e finiscono il 31 di agosto. Quelli in cui di solito si ha sempre un periodo libero, da impegni, dal lavoro, dalle cose che ingombrano abitualmente la vita di tutti i giorni. Vorrei sapere quello che farete quest'estate, se farete qualcosa e non farete solo vacanza. Se finirete un libro, ad esempio, di leggerlo o di scriverlo. Se tinteggerete casa, se la costruirete, la casa. Se farete un corso di uncinetto o un pellegrinaggio, ma anche se cercherete di raddrizzare o di stortare ancora la vostra vita. Quest'estate. Io oggi, e per l'ultima volta, sono qui. E oggi per l'ultima volta... Beh, mica tanto, poi il numero rimane quello anche per gli altri programmi. È sempre quello, è 80024 0024 per chiamare in diretta oppure un sms al 349 238 6666. Cosa farete quest'estate? Userei la parola progetti, però mi sta un po'... che non mi piace tanto la parola progetti. Quindi se non è che andate a Igea Marina o a... come si chiamava? Sottomarina, che... va benissimo, rispettabilissimo, figuriamoci. Alessandro Marco Tulli ci va ancora a Igea Marina quest'estate probabilmente. Però se fate qualcosa e non fate solo una vacanza, se fate come Carlo ad esempio, che fra 2 settimane si laurea, o se fate come Chiara che farà a grattare pareti, scartare, verniciare persiane, insomma si fa la casa. Roberto ancora ha 3 libri da finire: Don Chisciotte, l'autobiografia di Frank Zappa e uno nuovo di Jim Thompson. Boh. Saci invece: finirò di scrivere una serie di racconti. Fabio ha grandi progetti per quest'estate. Ufficio nuovo, quindi in bianco, sistemo l'impianto elettrico, di rete e faccio il trasloco. Fabio: farò la maratona di tutti i film di James Bond. Che ora? La domanda è sempre quella: perché? Emanuela, continuerò a cercare lavoro. Elisa, finire il videogioco Final Fantasy VII, e non c'è bisogno di dire chi è questa Elisa, l'avete già capito. Cominciare a definire un racconto che mi frulla in testa da un po'. Partecipare a dei tornei di Magic con un po' più di assiduità. O magari smettere di partecipare a dei tornei di Magic, Elisa. E poi arrivare ai Lagorai, le cime dei Lagorai, giusto Tiziano? Trentino, parliamo di... o Alto Adige. Dolomiti del Brenta. Non so, dico cose a caso, sono stato a Trento due estati. Fare delle belle fotografie. Deborah, progetti per quest'estate. Devo finire i preparativi del matrimonio. Mi sposo il 22 settembre. Ce n'è un altro, aspetta, ce n'è un altro che chiude i preparativi del matrimonio. Eccolo qua, Mirko. Sarò preso dai preparativi del matrimonio. 10 settembre sposerò Cecilia. Bravi. Francesca, costruiremo la nostra nuova bicocca. Marta, da Mosca a Pechino in treno. È lunga da Mosca a Pechino in treno. Alla Transiberiana. Di là mi guardano come se fossi un imbecille. Come se non sapessi che da Mosca a Pechino in treno è la Transiberiana. C'è una lunga estate davanti. O breve, sono due mesi. Che cosa avete intenzione di fare? Che non sia solo una vacanza, eh? Che fate veramente qualcosa. Che lo portate a termine o lo iniziate. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Quello che farò io sarà questo qua. Sì, parto per un po'. Questa è l'ultima puntata di questo programma. L'ultima puntata di questo diario. E sinceramente penso che la decisione che ho preso sia quella giusta. Visto che starò via un po', ho proposto ad Aldo di rimanere a casa mia, perché lui una casa ancora non ce l'ha. E a me fa piacere sapere che qualcuno sta vivendo la mia casa invece che tenerla ferma, chiusa, al buio. Quindi Aldo ha disdetto il residence a Rozzano ed è arrivato ieri pomeriggio, tenendo in mano una borsa grande quanto un cuscino. Gli ho chiesto se la valigia ce l'avesse in macchina e lui mi ha risposto che tutto quello che gli serviva stava lì dentro. Lui a casa mia c'era già stato, però essere ospite per un paio di giorni è diverso da prendere possesso di una casa per qualche tempo. Gli ho fatto fare il giro delle stanze e gli ho mostrato i piccoli trucchi che servivano per conoscerla meglio. Perché ogni casa ha dei piccoli accorgimenti che ti aiutano a viverci meglio in quella casa. Altrimenti rischi di non riuscire proprio a viverci lì dentro. Cioè, se non fai quello che lei vuole che tu faccia, rischia di ribellartisi contro. Ci sono piccole cose stupide che se non le conosci e non le assecondi, stare in quella casa può diventare un inferno. Se va in stallo la caldaia, bisogna girare la manopola sul simbolo del termosifone prima, poi su quello del rubinetto, poi di nuovo sul termosifone. E a quel punto riparte. Ah, il fornello del gas ha il tasto che genera la scintilla che è rotto, quindi bisogna accenderla con un accendino. Fai attenzione quando tiri sulle tapparelle, non arrivare fino in fondo perché sono saltati i fermi e rischi che la tapparella si infili tutta nel cassone e non la tiri più fuori. C'è il galleggiante dello sciacquone che galleggia male, cioè galleggia ma non galleggia, quindi c'è un rivolino d'acqua che scende in continuazione. Fai una cosa, per evitare lo spreco e il rumore, chiudi sempre l'acqua del bagno del rubinetto. Ah, poi la lavatrice. E la finestra che dà nel cortile. E la luce sul ballatoio. Per finire con la serratura della porta, che devi prima tirare la maniglia e poi sollevarla leggermente, altrimenti la chiave non gira. Gli ho dato le chiavi e Aldo, sorridendo, mi ha detto: oh, casa tua sembra la mia vita, che per viverci comodo devi conoscere un sacco di trucchi. It's gonna take a little time while you're waiting like a factory line. I'll ride across the park, backseat on the 79. Wasted days you've come to pass. So go, I know you would not stay. You Ecco che cos'è. È che ogni tanto ho la sensazione di non conoscere tutti i trucchi della vita. Sapete, no, che si dice anche quello la sa lunga. Ecco, credo di aver capito che cosa si intende quando si dice saperla lunga. Significa proprio conoscere quei piccoli trucchi che ti rendono la vita più facile. Un po' come saper far ripartire la caldaia, accendere il gas, aprire la porta. Ho un amico che definiva questa situazione in questo modo: mangiare il pane dei sette forni. Ecco, ci sono alcune persone che hanno proprio l'aria di chi quei trucchi lì li conosce. Altri invece che di fronte a quei piccoli ostacoli si sentono sconfitti. È che sono ormai 2 settimane che io ho il fiato corto. Avete presente come succede? Che ogni tanto mi accorgo che i miei polmoni hanno bisogno di un pochettino più di ossigeno. E allora lì rilasso le spalle, abbandono un po' i muscoli del collo e faccio un respiro pieno, fino a gonfiare tutto il petto, tutta la pancia. Poi, mentre l'aria esce lentamente dalle narici, mi chiedo che cosa c'è che non va. E non so quasi mai darmi una risposta. Perché forse ce n'è più di una, e tutte rispondono a domande diverse. Però odio questo stato di allerta costante. È come se qualcosa stesse per succedere da un momento all'altro, ma io non riuscissi a capire che cosa e perché dovrebbe succedere. Però ho imparato a conoscere questa sensazione. La provo quando la cosa che sta per succedere non arriva dall'esterno, ma quando quella cosa dipende da me. Quando qualcosa che ancora non ho identificato mi sta succedendo, percepisco questa sensazione di fiato corto, come se respirassi solo con le spalle. Ecco, questa cosa un po' mi aiuta però, perché anche se non so che cosa mi turba, almeno conosco questa sensazione e so che devo fermarmi. Devo fermarmi, fare un bel respiro, magari 2 o 3 di seguito, e rimanere a sentire cosa succede mentre respiro tutta quell'aria. Ecco, quello che succede adesso, quello che è successo e che sta succedendo da qualche tempo ormai, è che credo di non avere più voglia di raccontare troppo di me. Durante questo anno mi è successo più di una volta di avere la sensazione di vivere la vita di un altro. Cioè, mi sembrava che questa specie di seduta quotidiana di 45 minuti, qui davanti al microfono, mi mettesse poi, nelle altre 23 ore e 15 minuti della giornata, nella condizione di guardarmi da fuori, in continuazione. È un po' come se a vivere la mia vita fossimo sempre in due, io che facevo le cose e io che le raccontavo. È un po' come se a fare la telecronaca di una partita di calcio fosse il centravanti di una delle due squadre che stanno giocando. E come dice mia nonna, fare due cose insieme non se ne fa bene nemmeno una. E quindi il fiato corto che provo in questi giorni è dovuto a quello. Al fatto che sto facendo da troppo tempo 2 cose contemporaneamente. 2 cose che forse contemporaneamente non si possono fare. Fare e dire. Vivere e raccontare. Ogni tanto durante l'anno mi sono arrivati dei messaggi di qualcuno di voi. Messaggi che mi dicevano: Matteo, ma quanti problemi ti fai? O più prosaicamente un bel: tu ti fai troppe pippe mentali. Ecco perché ho deciso che adesso mi faccio passare questo fiato corto, Faccio un bel respiro e poi parto per un po'. Thank you. Dopo il giro per la casa insieme ad Aldo, siamo usciti a mangiare. Lui voleva a tutti i costi offrirmi la cena perché diceva che l'ospitalità è qualcosa che va celebrata. E poi, visto che non l'aveva ancora fatto, mi ha chiesto per dove partivo. Gli ho detto che andavo in Georgia. E lui si è messo a ridere, mi ha detto, beh, guarda, in Georgia, no? Come no? Io ero indeciso se andare in Corsica quest'estate o in Inguscezia. Lui ovviamente sa di Natalie, quindi era una battuta fatta giusto per il gusto di farla. Gli ho chiesto che intenzioni invece avesse lui per l'estate. E mi ha detto che non lo sapeva, ma che non gli piace fare programmi. Quelli che prenotano la casa a gennaio gli mettono ansia, dice. E se proprio avesse fatto qualcosa, l'avrebbe fatto all'ultimo momento. Beh, gli ho detto che sì, effettivamente così fa più figo, no? Far la parte di chi vive la giornata ha più sex appeal rispetto a chi pianifica con anticipo. Alla fine però ogni tanto fissare le cose che vorremmo che accadessero di lì a 2 settimane o a 2 mesi non è poi così male. E poi soprattutto c'erano un sacco di cose che poteva fare nel tempo che l'estate lascia libero sempre. In quelle 3 settimane che improvvisamente si svuotano di quello che di solito facciamo tutti i giorni. E che non si è obbligati ad andare al mare, in montagna o in Mongolia a fare raid nel deserto. Che ci sono alcuni che in quel periodo vuoto semplicemente fanno delle cose. Restaurano mobili, fanno ricerche, pellegrinaggi, costruiscono casa, seguono corsi, scrivono libri, leggono libri che non hanno mai finito di leggere. Che insomma l'estate non è solo il luogo in cui non si pensa a niente di importante. Non è solo il momento in cui non si fa. Ma che può diventare anche il momento in cui si pensa a qualcosa per farla diventare importante. Insomma, il periodo in cui invece si fa. Aldo è diventato serio. Io però non volevo sortire quell'effetto. È diventato serio in un modo che io ho pensato che quella notte a casa mia, la notte in cui lui era seduto di spalle con la testa abbassata, probabilmente deve aver avuto proprio quell'espressione lì. È stato in silenzio per un attimo interminabile e poi mi ha detto «Sì, allora penso che ce l'ho un progetto per quest'estate. Rimettere insieme la mia vita». Rimettere insieme la mia vita. 800240024 0024 oppure 349-238-6666. Alcuni messaggi. Sistemerò la mia Iole, che non so cosa sia, credo che sia una macchina, una bicicletta. Io metterò a posto le foto digitali. A 34 anni farò un test universitario per poter accedere al corso universitario per tecnico biochimico. Domenico, ho lasciato il mio lavoro, 16 anni di dirigenza, ho voglia di ridere e respirare. Progetterò la casa sull'albero per mia nipote che sta nascendo. Prossima settimana, prima udienza per una superazione non consensuale. Valentina da Torino. 349-238-6666 800240024. Questa è l'ultima puntata di Io sono qui, ma questa fascia oraria rimane, cioè rimane nella vita delle persone, dalle 16 alle 16.45 continueranno ad accadere delle cose, ma in particolar modo continueranno ad accadere delle cose qui a Radio 24 e la persona che le farà accadere è Tommaso Labranca. Pronto Tommaso? Pronto, ciao. Ciao, ciao, buongiorno, come stai? Beh, benino, benino, un po' emozionato ed agitato per l'esordio di lunedì, però insomma... Senti, raccontaci che cosa fai da lunedì esattamente. Da lunedì prendo il tuo posto per 2 mesi fino all'inizio di settembre e facciamo un lungo, chiamiamolo viaggio, anche se il viaggio non sarà perché il viaggio comincia e finisce, invece noi andremo avanti e indietro, nelle vacanze degli italiani. Sceglieremo ogni volta un tema diverso e poi cercheremo di svilupparlo con degli ospiti che ne parlano seriamente, con me che ne parlo meno seriamente e poi soprattutto poi con gli ascoltatori che manderanno le loro esperienze e i loro ricordi, perché dovremo ricordare tutte le estati che sono passate in maniera assolutamente disorganica. Però credevo per un attimo ho temuto disorganizzata, ma forse anche perché, quello. Senti Tommaso, le vacanze disorganizzate sono le migliori. Ma sei in onda da Milano o da Roma? Da Milano, in onda da Milano. E c'è con te Fabrizio Intonti, giusto? Del programma, lo stiamo creando, per cui sarà è tuttora e lo sarà nei prossimi 2 mesi una guida valida e insostituibile. Ma perdonami, ma non è in onda con te, tu sei in onda no, da solo? No, okay. Ok, perfetto. Senti, tu hai già idea, se hai voglia di raccontarlo, con cosa partirai lunedì o se sai più o meno dove andrà questo viaggio oppure è venerdì e ancora ci sono 2 giorni per pensarci? No, no, no, è tutto pronto per fortuna. Sai, allora, abbiamo visto che quando facevamo dei piccoli test, le persone dicevano, le vacanze del passato, e ricordavano cose del 65, dell'82. Allora, noi cominciamo dal 2010, perché il 2010 non lo ricorda più nessuno, sono cose che abbiamo voluto dimenticare, come la figuraccia dei mondiali, cose che abbiamo voluto dimenticare come la Venezuela e tutte queste belle cose che sono state. E per cui la domanda sarà, cosa ricordate dell'ultima estate che avete vissuto, quella del 2010? Senti Tommaso, un'ultima cosa e poi ti saluto e ti do appuntamento a lunedì. Il titolo, La bella estate, ha a che fare con Pavese oppure no? Sì, ha a che fare con Pavese, nel senso che è una cosa di Pavese che abbiamo amato moltissimo, però non la citeremo mai, gli abbiamo rubato solo il titolo. Ok, va. Tommaso, senti, io ti faccio un sacco di in bocca al lupo se si fa così e ti auguro una buona e bella estate. Grazie anche a te, riposati. Farò il possibile. Ciao, grazie. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao. E sto qui. E oggi per l'ultima volta siamo in una delle foto più classiche di Io sono qui. Paesaggi. Me ne avete mandate tante e le ho amate veramente tutte dello stesso amore sincero. Un bel paesaggio quello di oggi, è un'alba o forse un tramonto. C'è un cielo screziato da qualche nube, un grande spiazzo, un albero privo di foglie e in lontananza dei grattacieli. Luca Mascaro, 28 anni. La luce del tramonto sopra i palazzi di Tokyo e i ciliegi in fiore. Tutto diventa arancione e i ciliegi prendono un colore ocra. Il tutto scalda ancora oggi il mio cuore. Io sono qui. Oggi è venerdì 1 luglio, domenica 3 di luglio invece esce il sesto numero per la collana Racconti d'autore insieme alla Domenica del Sole 24 Ore. Vi ricordo, con 2 euro soli, cioè 50 centesimi in più rispetto al prezzo del giornale, vi portate a casa questa volta due racconti di Amelino Tom, che sono L'entrata di Cristo a Bruxelles e Senza nome. Questa cosa va avanti per 20 numeri, soli 50 centesimi in più. Si chiama Il Racconto d'autore. Sono le 16:33, 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Mi dicono Gianni da Brescia che la Iole, quello che scartavetrava la Iole o stava con la Iole, è una barca a vela. Andiamo però subito a sentire andiamo a sentire Francesca da Pordenone. Pronto Francesca? Ciao Matteo, come stai? Io sto bene, tu come stai? Non c'è male, dai, sono tu... in viaggio, mi sono fermata comunque. Dove stai andando Francesca? Niente, in quest'estate diciamo che realizzo il sogno della mia vita, perché raggiungo il mio amore a Firenze, sto traslocando da Pordenone con la macchina piena di pacchi e pacchettini. Cioè, ma sei in questo momento proprio in auto con i pacchi? Sì, sì, un pezzo del trasloco lo sto facendo ora. E quanto manca al trasloco totale? Ne manca ancora un po', io conto di finire tutto per la fine di luglio. Da quanto state insieme, Francesca? Siamo insieme da un anno più o meno, però ci conosciamo da 18, una storia alla Eri ti presento Sally. Nel senso che eravate amici prima? Esatto, ci siamo conosciuti 18 anni fa e poi un anno fa improvvisamente è scoccata la scintilla e ora... Che cosa farai? E ora cominciamo. Che cosa farai a Firenze? Per ora nulla. E cosa facevi a Pordenone invece? Lavoravo in un centro di assistenza fiscale, un posto un po' così, però ho contatto col pubblico, quindi mi divertivo. Francesca, allora io per questi 2 mesi e per i prossimi anni ti faccio un sacco di in bocca al lupo. Grazie mille Matteo, ciao. Io continuerò a sentirti. Ciao, grazie Francesca, stare. Grazie. Ciao, non so come, perché io da lunedì... Vabbè, però magari se ascolti i podcast, tipo in loop, dal 4 settembre... Cioè, lo stiamo dicendo così? Che riprendiamo il 4 di settembre? Io volevo tipo, sai, creare quella menata lì dell'aura. Ma quando tornerà? Banalmente il 4 di settembre. Ma siamo sicuri? Andiamo a Milano da Irene. Pronto, Irene? Pronto. Ciao, Matteo. Ciao, Irene. Sei in un sottoscala? Benissimo. Sento questa eco come se tu fossi a metà tra un forno a microonde e una grotta, probabilmente. No, siamo al centro sperimentale di cinematografia di Milano. Che meraviglia. E mica a caso ci siamo in quel posto, perché quest'estate si fa un cortometraggio. Esatto, si fa un cortometraggio, lo giriamo io e una mia collega del corso di sceneggiatura, lo giriamo a Cervia, quindi ci trasferiamo a Cervia fra un po' e prepariamo, organizziamo tutto il set. Come si chiama, Irene? Allora, il cortometraggio si chiama Quell'estate al mare. Uh-huh. E racconta la storia di un bambino negli anni 60, trascorre l'estate nelle colonie estive e fa un incontro un po' particolare. Scusami, il cortometraggio noi intendiamo al di sotto dei 5 minuti? No. 20? In realtà la durata massima di un cortometraggio è circa, penso, un 15-20 minuti, poi diventa qualcos'altro. Il nostro sono una decina di minuti, però ben fatti. Vai Irene, va, magnifica, te la sei venduta alla grande. Avete già un festival dove andare? ma noi puntiamo in alto, vorremmo andare a Cannes. Certo, anch'io vorrei andare tanto a Cannes prima o poi, così anche solo a fare un giro. La sceneggiatura è già stata selezionata un premio a Treviso, il premio Sonego, quindi siamo abbastanza tranquille che sia che venga una cosa ben fatta. E poi noi stiamo raccogliendo i fondi per fare il nostro cortometraggio. Dai, online. spara un indirizzo internet e poi ti saluto. Dai, eppela.com, la prima piattaforma italiana di crowdfunding. Benissimo, quindi aiutate Irene a fare il film che, ricordami, si chiama? Si chiama Con l'estate al mare. Irene, in bocca al lupo per l'estate e per il cortometraggio. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao, al volo abbiamo l'ultima telefonata di oggi e di sempre, forse, della vita. Maurilio, da Torino. Pronto, Maurilio? Ciao Matteo. Ciao. Tu cosa fai quest'estate? Vado rapidissimo, in 15 giorni con due miei amici, partiamo da Torino e arriviamo a Istanbul in macchina. Ma esistono dei voli? Lo sai che esistono dei voli? No, da caselle anche. Il top è vedere cosa c'è in mezzo fra Torino e Istanbul. Oddio, aspetta, mica mi starei dicendo quella roba che l'importante del viaggio è il viaggio e l'importante... No, l'importante del viaggio è vedere tante cose e vederne il più possibile nel minor tempo possibile. Maurilio, senti, e allora ti saluto e ti faccio un bocca al lupo per il buon viaggio. E ci sentiamo e ti farò sapere. Bravo, ciao, grazie. Ciao, ciao. E abbiamo una roba che a noi, Raffaella Carrà, ci fa un saluto e abbiamo al telefono la persona da cui la prima telefonata, quella donna che si chiamava, non ricordo più come, stava andando. È Paolo da Firenze. Pronto, Paolo? Ma intanto si chiama Francesca. Francesca. E comunque lascia stare la Carrà, dai. Senti, Paolo... No, ti volevo solo dire una cosa, che non è vero che eravamo amici, perché già 18 anni fa la cosa era in potenza, solo che... Ora non ti sto a dire... Cioè, c'era già stata della roba, Paolo? Sì, sì. Ah, sì, vabbè, sì, lei ha voluto farmela... Ha voluto farmela un po' come un film. Esatto, senti, esatto. Io a questo punto faccio anche a te gli auguri che... Ma non potevi andarle incontro a sta cristiana che è da sola con la macchina carica? No, non ci stavo. Vabbè, al casello almeno. Paolo, chiudo dicendo, vi chiamate veramente Paolo e Francesca o sono due pseudonimi? Sì, purtroppo sì, infatti non si sa come andrà a finire. In bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao Matteo. Ciao, grazie. L'ultimo messaggio di oggi è un messaggio che arriva da Livorno, perché con Livorno siamo un po' attaccati. Ciao Matteo, buon viaggio, grazie per aver dato voce a delle cose che sento anch'io. Per l'estate io semplicemente non faccio nulla, ma è arrivato veramente il momento di salutarci. Partenza alle 11.20 da Milano Malpensa. Arriva a Minsk International Airport alle 15.20. Attesa di 7 ore e mezza. Partenza da Minsk alle 22.35. Arriva a Tbilisi alle 2.30 del mattino. Era quasi inutile che vi dicessi per dove parto. Ormai chi sente questo programma sa che c'è un unico posto in cui io voglio andare, anche se non pensavo mai che ci sarei andato. La Georgia. Questo è stato un anno abbastanza lungo per me. O forse è stato un anno normale, ma a raccontarlo giorno per giorno è sembrato più lungo. A ripensarci mi vengono in mente tanti piccoli pezzi di racconti, dei dettagli spesso insignificanti rispetto al totale. La cena alla cozzeria in cui vomito tutto, ad esempio. L'incontro con Italo. Le prove di uno spettacolo che non volevo fare. Claudio, Agostino, Gaia. L'agente immobiliare che mi ha affittato la casa. E poi la vendita del baule di Nadalì. Ecco, quello è forse l'unico dettaglio non inutile che mi viene in mente. Anche perché... quel baule lì, io alla fine l'ho ricomprato. Chi ha partecipato alla serata live di giovedì scorso già lo sa, anche perché l'ha visto coi suoi occhi. È andata così. Qualche settimana fa, un sabato mattina, io sono tornato al mercatino sui Navigli e non ho dovuto fare nemmeno tanta fatica, perché alla prima bancarella, quella a cui l'avevamo venduto, l'ho ritrovato. Identico a come gliel'avevamo lasciato, con la scheggiatura e qualche macchia marrone più chiara. L'ho pagato 20 euro in più rispetto a quando gliel'avevamo venduto, ma me lo sono portato a casa. Sì, perché questo è il mio progetto per questi mesi. Metterci dentro cose mie per quando lei tornerà. Ci ho pensato parecchio a cosa metterci dentro, eh. All'inizio ho pensato di riempirlo fino all'orlo di tutto quello che piace a me. Libri, film, abiti, giochi, ricette. Poi ho pensato che no, che dovevo riempirlo di cose che piacevano a lei. E quindi ho comprato un paio di vestiti, una torta, una bottiglia di vino e altre boiate simili. Fortunatamente ho aspettato qualche giorno e sono rinsavito. Ho cercato di immaginare qualcosa di molto semplice, qualcosa che magari non lo riempisse fino al colmo, ma che raccontasse qualcosa di me a lei. Qualcosa che non conoscevo, che magari già conosceva, però, insomma, poteva avere una forza maggiore proprio perché era messo in quel baule. E quindi sono arrivato ad immaginare solo tre cose. Tre piccole cose da mettere dentro quel baule. La prima cosa è una foto. È una foto mia, eh? Una foto in cui si veda la mia faccia. Non una foto qualunque, non quella della carta d'identità. Una foto in cui si riconosca un pensiero, un'espressione in cui si possa cogliere un lampo di chi sono io. La seconda cosa invece è un video. È una ripresa breve di circa un minuto in cui si vedono delle cose che mi appartengono, che in qualche modo sono mie, delle cose che so fare, come un piccolo gioco di prestigio, ad esempio. Un movimento del naso, qualcosa che faccio solo io, di quelle cose che si mostrano ai bambini. L'ultima invece è una cosa che conoscete già, la conoscete perché ne parlo spesso e ve l'ho già chiesta. È un piccolo racconto in cui non parlo di me, ma racconto un episodio importante della mia vita, che racconti chi sono io. Ecco, questo è quello che metterò in quel baule, tre piccole cose. E questa è la cosa che ho deciso di chiedere anche a voi per la prossima stagione. A partire dal 4 di settembre, ma cominciate a farla adesso. Mi piacerebbe che chi di voi ascolta questo programma e chi ha voglia di raccontarmi qualcosa di sé, scelga quelle stesse tre cose e me le mandi. Una foto in cui ci siete voi, un video in cui mostrate qualcosa e il racconto di un episodio che vi racconta. La prossima stagione vorrei raccontare le vostre storie. Ogni giorno vorrei aprire il vostro baule e raccontare una piccola, vostra storia, ogni giorno diversa. Per un anno vi ho raccontato dove ero io. Il prossimo vorrei raccontare dove siete voi. È il 1° di luglio del 2011. Questo programma è stato fatto da un insieme di persone che in un modo o nell'altro l'hanno reso quello che avete sentito, nel bene e nel male. All'inizio, ormai mesi fa, Alessandro Genovesi, che l'ha pensato insieme a me. E poi Stefano D'Andrea, che l'ha scritto tutti i giorni insieme a me. Non proprio insieme, al fianco, ma ognuno a casa sua. Tiziano Bonini, che direi che l'ha proprio fatto, completamente con me. All'assistenza ci sono state Vittoria Mussini, prima, che oggi è miracolosamente qui con noi, Viola Bottoni, poi, e Laura Faggin, qualche lunedì qui e qualche lunedì là. Grazie a tutti loro, grazie a tutti i tecnici e a Paolino Corleoni nella fattispecie che è qui oggi ed è stato spesso qui con noi. Grazie però anche e soprattutto a Radio 24 che ha deciso tempo fa di mandarlo in onda e di mandarlo in onda per tutti i 10 mesi. Vedete, io vi ho sempre raccontato il mio diario e con oggi basta. Voglio salutarvi con le ultime parole scritte su quelle pagine, su quel diario, da un'altra persona però. Sono le ultime righe scritte da Nathalie, quelle che hanno incrociato le mie parole e che alla fine hanno fatto parte di un'unica storia. E quelle parole sono queste qui. Domani parto per Tbilisi, sono felice anche se staremo lontani, anche se ho qualche pensiero che mi tormenta, anche se ho un ritardo.